imprenditori, delle persone, dei commercianti, insomma, nelle zone alluvionate. La nostra Laura Bettini oggi ha raccolto la testimonianza Claudio Bagante, produce cavi elettrici speciali, la ditta si chiama SDB. Sentite come sono messi. Ad oggi siamo riusciti a ripartire con circa il 25% della produzione. Alcuni impianti sono ancora fermi perché hanno subito danneggiamenti importanti. Tenga presente che tutte le macchine avevano i motori allagati e quindi stiamo provando a ricondizionare. Alcuni motori abbiamo dovuto gettarli. Stiamo controllando tutta la parte elettronica perché quella è ancora più delicata. Quindi oltre al fermo produttivo c'è un danno pesante anche a livello di impianti e di materie prime. Che tipo di risposta vorreste? Vorremmo avere qualche interlocutore. Non c'è un interlocutore per voi? Ad oggi abbiamo avuto contatti telefonici con l'associazione industriale, che ha manifestato tutta la disponibilità per quello che possono fare. Abbiamo ricevuto telefonate dai nostri clienti, perché la nostra è un'azienda che esporta l'80% della produzione sul mercato europeo. Abbiamo avuto telefonate di solidarietà e di offerte di aiuto da parte dei nostri clienti esteri. Basta. Una volta ripartite le macchine, una volta riavviata la produzione, che cosa vi farebbe comodo, diciamo, si parla dello sciopero fiscale, ma che altri tipi di iniziative potrebbero aiutarvi? Lo sciopero fiscale, vabbè, lasciamo dire a qualcun altro. Qualche intervento, comunque qualche agevolazione a livello finanziario probabilmente potrebbe dare una mano. E sentiamo anche la testimonianza, bravissimi, i nostri Simone Spezia e Laura Bettini, che in questi giorni hanno coperto il Veneto. Dicevo, la testimonianza di Giancarlo Busato, che è proprietario di una storica stamperia nella zona di Vicenza, sommersa dall'acqua, adesso dal fango, e ha spiegato in maniera forse un po' semplice, per carità, non avrà il linguaggio forbito degli economisti, però che cosa si può fare per aiutare gli artigiani a superare questo momento? La burocrazia non si è fermata per l'alluvione, no? Quindi io spero, ma sono quasi convinto, perché guardi, sia Comune che l'associazione artigiani è sempre stato subito vicino, almeno a me, insomma, non posso dire nulla, anzi spero appunto che ci vengano incontro con queste agevolazioni, quindi gli studi di settore, quindi le tasse, perché gli anticipi e tutto quello che viene di conseguenza burocratica, che dica, beh, insomma, per un anno. E poi, come ho detto anche lì al vice direttore, di dire: guardate, compratemi quello che mi è rimasto. Se mi è rimasto, non so, 100 fogli, ti compro quelli, e al posto di fare il panettone quest'anno, gli dici: guarda, la fornitura del pane per il comune te la diamo a te o tre panettieri per un anno. Certo. E i rinfreschi lo facciamo da Bolzani, che anche lui è andato via, e la frutta la compriamo al fruttivendolo, cioè, o dall'orefice, che magari ha salvato qualcosa. Io, guarda, se hai qualcosa, aiutare in questa maniera, cioè di acquistare i prodotti che l'artigiano fa.